Ma io oggi voglio parlarvi di Sant'Agnese, perché oggi, 21 gennaio, è la festa di Sant'Agnese, una ragazzina morta, martire santa. La Chiesa ha sempre avuto una grande attenzione verso i bambini santi, perché il Signore li suscita. Se noi guardiamo anche nella Bibbia, Samuele è stato chiamato da bambino, Davide è stato chiamato da ragazzetto, poi sono cresciuti, sono diventati grandi personaggi, ma nella storia della Chiesa ci sono dei ragazzetti chiamati da ragazzetti che muoiono da ragazzetti, no? Ne avete in mente certamente qualcuno. Nell'antichità noi possiamo ricordare Sant'Arcisio, per esempio, il martire che portava l'Eucaristia ai prigionieri nelle carceri romane. Ai nostri giorni ci viene in mente San Domenico Savio, Laura Vicugna, poco conosciuta, ma è una ragazzina sudamericana, santa. Ultimamente Carlo Acutis. Ma ce ne sono anche altri, per esempio non sono ancora stati fatti santi, ma sono ragazzini straordinari. Qui a Varese c'è un ragazzino, forse vissuto 50 anni fa e più, è morto, Domenichino Zamberletti. Forse non l'avete mai sentito, ma interessante la sua vita. Oppure a Roma o nel centro, Nennolina Di Meo, questa ragazzina di 7 anni morta con un amore particolare all'Eucaristia, commuove a leggere cosa scriveva prima di fare la prima comunione. Poi abbiamo, per dire, Agnese ha la fortuna di aver incontrato Sant'Ambrogio di Milano, che ha scritto una pagina meravigliosa che io prima o poi qualche volta vi leggerò, perché è troppo bella. E Agnese è una ragazzina romana della nobiltà che viene destinata dai suoi genitori a sposare un giovane ragazzo, un giovane uomo della stessa nobiltà, ma lei ha incontrato Gesù nella fede, si è innamorata di Gesù, ha deciso di consacrargli tutta la sua vita senza sposarsi, perché l'amore è un amore geloso. Se sei innamorato di uno non puoi essere innamorata di due. E vuole restare vergine e dedicarsi. I suoi genitori non vogliono mica e cercano in tutti i modi di convincerla senza riuscirci, finché hanno un'idea scellerata. Dicono: se noi la denunciamo, per la paura di non morire, questa qui c'è. Hai voglia? Una donna di coccio è, anche se è ragazzina, se è innamorata non la sposti più. E lei va tranquilla. I genitori sono disperati, la portano davanti al giudice, il giudice cerca in tutti i modi di convincerla: ma non vedi i tuoi genitori come sono disperati? Ma butta un pugnetto di incenso nel braciere davanti agli dèi, per me basta questo qui. E no, dice, questo vorrebbe dire tradire il tuo amore, tradire Gesù. Dice la storia che la portano persino in una casa di prostitute per vedere di sviarla, per vedere, ma quando stanno per spogliarla sono accecati tutti da una luce prodigiosa. Alla fine, incatenata, ma Sant'Ambrogio a questa pagina dice: ma non c'era, aveva le braccine così sottili, 12 anni, che i ferri non riuscivano a trattenerla, si sfilava dagli anelli delle catene, e alla fine viene uccisa. E Sant'Ambrogio la canta in un inno stupendo e in una pagina meravigliosa come modello di verginità consacrata, e a lungo per le nostre ragazze dei secoli scorsi è stata patrona della gioventù femminile. Ecco, cari amici, io non finirei di parlarvi dei santi, e chissà che poi arrivi a parlarvi anche nelle mie catechesi sui santi, anche dei santi dei primi tempi, i padri della Chiesa, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, Gregorio Magno, Basilio il Grande, Giovanni Damasceno, San Giovanni Crisostomo, Sant'Atanasio. C'è tutto un patrimonio di santità che purtroppo il popolo cristiano non conosce. E io, che li amo molto, sto studiando per vedere di fare delle catechesi con questi santi. Intanto oggi vi ho parlato di una santa cantata in maniera straordinaria da Sant'Ambrogio. Io invoco con voi lo Spirito Santo perché mi illumini a parlarvi dei santi, che i santi sono il Vangelo vissuto, il Vangelo cantato, il Vangelo rappresentato dal vivo. E noi sappiamo che le parole convincono, ma l'esempio trascina.